Perfetto Giorno di Simone Spezia. La guardia di finanza nella casa del sindaco di Quarto, che non è però indagata. Cantone dice regolari gli appalti sulla rete fognaria. A Colonia salgono a 500 le molestie denunciate, tutti stranieri responsabili, dice il ministro. Il portavoce di Merkel: nulla giustifica l'ostilità contro i musulmani. Migranti gettati in mare nell'Adriatico dagli scafisti, è morta una donna somala, si cercano dispersi al largo della Puglia. Musica alla leggenda, David Bowie muore a 69 anni, venerdì era uscito il suo ultimo disco, era malato di tumore. Golden Globe, il premio ad Ennio Morricone per la colonna sonora dell'ultimo film di Tarantino, miglior film invece Revenant e migliore film di animazione Inside Out. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Vi ricordo, perché poi qualcuno ci ha scritto in merito a questo per avere dettagli ulteriori, che la puntata del lunedì è lievemente diversa. America 24 va un po' in anticipo, intorno alle 13.40, e poi l'ultimo quarto d'ora, dalle 13.45 alle 14, è occupato dalla nostra trasmissione dedicata all'autotrasporto. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, come sempre, e poi ovviamente il WhatsApp e il numero di SMS, il 349-238-6666. In apertura dunque andiamo a Quarto, dove oggi ci sono state le perquisizioni della Guardia di Finanza, anche in casa del sindaco del Movimento 5 Stelle, Rosa Capuozzo. Stamattina i carabinieri hanno perquisito la casa del sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, sfiduciata dai vertici del partito ed estranea alle accuse per quanto riguarda i contatti con la Camorra sugli appalti alla rete fognaria, all'acquedotto. Stando alla lettura del decreto di perquisizione, la posizione del sindaco Capuozzo appare discutibile e poco lineare. La stessa procura sottolineare che al momento il sindaco non è indagata, ma la sua condotta è sicuramente da approfondire. Anche Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si è pronunciato sulla vicenda. Il comune di Quarto ha chiesto correttamente al prefetto che cosa fare su commissariamento o meno, ha detto il magistrato. Non sono in grado di dire se alle elezioni al comune ci sia stata corruzione o voto di scambio. Se ne occuperà la procura. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Vicenda che continua a tenere politicamente banco, ovviamente non è l'unica, però partiamo da qua con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Eh sì, Simone, buongiorno. Il caso politico resta in primo piano, con deputati e senatori del Movimento 5 Stelle che rimandano la posizione espressa ieri dal blog e dunque riconducibile a Grillo e Casaleggio. Noi siamo il Movimento 5 Stelle, spiegano allora ai vertici dei pentastellati, l'esempio vale più di qualsiasi poltrona. Noi dobbiamo garantire il movimento tutto e per questa ragione chiediamo con fermezza a Rosa Capuozzo di dimettersi e far tornare ad elezioni Quarto. Indicative oggi le parole di Dario Fo, da tempo simpatizzante di Grillo, che difende il movimento e dice: poche volte in vita mia ho visto utilizzare i linciaggi politici in un modo così spudorato. Sulla vicenda Quarto però il PD non allenta la presa, sono nel caos e non riescono a dire la verità, scrive l'Apicerno. Da loro il peggio della vecchia politica, aggiunge Carbone, gli effetti speciali durano poco, commenta il centrista dell'AI. Simone. Sì, Vincenzo, ci sono altri fronti politici aperti, a partire da un'ipotesi di depenalizzazione per chi coltiva marijuana in casa, che sta facendo discutere la maggioranza. Eh sì, diversi temi che riguardano la depenalizzazione. Partiamo, Simone, dall'ipotesi di intervento sul reato di clandestinità. Ieri le parole del Presidente del Consiglio Renzi, il tema, ha detto il Premier, non sarà nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Oggi la conferma anche dal Sottosegretario Ferri, che spiega: dobbiamo valutare a 360 gradi una serie di norme che consentano di garantire la sicurezza e di distinguere le problematiche connesse con l'accoglienza. Per quanto riguarda la cannabis alla quale facevi riferimento, Gasparri, Forza Italia accusa Renzi ne vorrebbe depenalizzare la coltivazione, a replicare però dal governo è Della Vedova, che spiega la delega al governo riguarda solo le aziende autorizzate già a questo tipo di coltivazione, il reato rimane. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti politici. Ci spostiamo a Colonia, dove sono salite a 500 le molestie denunciate. Nei nostri titoli abbiamo detto che c'è il ministro che dice che sono tutti stranieri responsabili, qualcuno ci scrive che cosa intendiamo esattamente. Sono le dichiarazioni del ministro dell'interno del Nordreno-Vestfalia, Ralf Jäger, che dice appunto che praticamente tutte le violenze compiute nella notte di Capodanno sono state ad opera di stranieri, tra cui anche migranti giunti in Germania lo scorso anno. Ci colleghiamo con la nostra inviata, Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Allora, dacci anche un quadro della situazione, vai. Sì, a Colonia, anche se ora, come sempre di questi tempi, in giro si vedono quasi soltanto persone con stravaganti acconciature, visto l'imminente carnevale che qui è la festa più sentita, l'atmosfera in realtà non è per nulla come quella degli anni scorsi, perché la Silvester Nacht, la notte di San Silvestro, sta davvero cambiando l'intera Germania, come titolano concordi i media tedeschi. Come dicevi, l'aumento, le denunce sono salite a 516 e il ministro dell'interno del Nordrhein-Westfalia ha confermato che sono per lo più da riferire esclusivamente agli stranieri, e questo aumento esponenziale delle denunce sta scatenando quelli che molti migranti già mi confidavano ieri come paura nel campo profughi di Colonia, ossia casi di razzismo e aggressioni. 6 pakistani e un siriano sono stati feriti nella notte a Colonia e la polizia sta cercando di capire se sono casi da collegare con la caccia allo straniero nel centro della città renana, lanciata su Facebook da gruppi di hooligans che sabato hanno sfilato insieme alla destra xenofoba di Pegida. Notizie di sicuro allarmanti che fanno dire alla portavoce della cancelliera Angela Merkel che nulla può giustificare le violenze. A Berlino il clima di sicuro è sempre più difficile, mentre si discute oggi anche la dichiarazione di Magonza con la stretta per gli stranieri colpevoli di reati e quindi con espulsioni più facili e più veloci e anche la revoca del diritto d'asilo. Simona. Allora, grazie alla nostra Raffaella Calandra, con la quale torneremo a collegarci più avanti nel corso della trasmissione, sentendo anche qualche voce che ha raccolto in questi giorni a Colonia, e speriamo francamente con una connessione migliore. Si comincia a parlare tra l'altro di Taha Rush Game per quanto accaduto a Colonia e molte altre città tedesche a Capodanno, molestie sessuali anche di massa, un fenomeno noto in particolare in Egitto. Laura Bettini ha intervistato Azzurra Meringolo, che è un'esperta di differenze di genere nel mondo arabo e caporedattrice di Affari Internazionali. Sentiamola. A Piazza Tahrir, i 18 giorni della rivoluzione che io ho potuto seguire e anche coprire come giornalista, non c'è mai stata una violenza su una donna. Il primo caso di violenza è stato appunto la sera della caduta di Hosni Mubarak, quando la gente era esplosa di gioia celebrando appunto il successo almeno di quel momento. La prima giornalista americana, Lara Logan, è stata vittima di uno stupro di massa. E la cosa che mi sembra interessante sottolineare è la presenza di questo evento di festa, che è una costante che accompagna diversi momenti ricordati come stupri di massa. Essenzialmente i giorni più pericolosi per le donne sono i giorni alla fine del mese di sacrificio, del Ramadan, nel quale si celebra appunto la fine del digiuno. E in questi giorni si sono registrati in diversi anni i più grossi stupri di massa. Okay, quindi a Colonia si sarebbe semplicemente ripetuto un qualcosa che accade già altrove, magari non era la prima volta che accadeva in Europa, ma che comunque è un fenomeno noto, ed è accaduto esattamente con gli stessi elementi, diciamo, quindi la festa, il grande raduno. E a Colonia, almeno dalle notizie che riporta la stampa, sembra esserci un vero e proprio movimento organizzato. Questo bisogna ancora vedere se è realmente così. Ecco, questo non l'ho ritrovato, almeno nelle dinamiche egiziane. Sì. E non penso neanche che in realtà sia la prima volta che questo fenomeno si sia ripetuto in una città europea. Era già successo alcune volte con casi magari di donne singole a Trafalgar Square, quindi a Londra, durante il Capodanno. Insomma, si è già manifestato questo fenomeno in maniera più contenuta. E di questi temi, come si diceva, torneremo a parlare più avanti con la nostra inviata Raffaella Calandra a Colonia. Veniamo alla morte di David Bowie. Sono molto dispiaciuto e triste nel dire che è vero. Resterò scollegato per un po' di tempo, con grande affetto per tutti, Duncan Jones. Così uno dei due figli di David Bowie ha confermato su Twitter la notizia della morte del padre, postando una sua tenera foto da piccolo sulle spalle del Duca Bianco. Se n'è andata così a causa di un cancro a 69 anni appena compiuti, una vera leggenda della musica. Attivo dalla metà degli anni 60, lo Zelig del rock ha attraversato 5 decenni di musica, cambiando nel tempo il suo stile e la sua immagine. immagine e influenzando generazioni di artisti. Proprio l'8 gennaio, giorno del suo compleanno, era uscito il suo ultimo album Black Star, con 7 inediti, che già si preannuncia come il miglior album del 2016. Look up here. I'm in heaven. Sposato dal 92 con la top model Soma Leiman, aveva 2 figli, Duncan, nato nel 71 da un precedente matrimonio, e Alexandria Zara, nata nel 2000 dalle nozze con Iman. Considerato uno dei 100 migliori compositori di sempre, secondo Rolling Stone, tra le sue canzoni più belle citiamo Life on Mars, Space Oddity, Starman e Heroes. Nel 97 il Duca Bianco è stato il primo artista a collocare delle obbligazioni, i cosiddetti Bowie Bonds. Nel 2006, l'anno in cui vinse il Grammy Award alla carriera, la sua ultima performance dal vivo con Alicia Keys per un concerto di beneficenza a New York. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il commento di Daniele Biacchessi. Per molti artisti cavalcare dopo anni le scene musicali può divenire mera routine. Il disco nuovo, le interviste, il tour di concerti promozionali. David Bowie non era così, non viveva di solo passato. Lui aveva traghettato il rock degli anni 70 fino a condurlo ai gusti e alle tendenze più moderne. Fu lui uno dei primi a curare fin nei minimi particolari la sua immagine, nelle copertine dei dischi, nei primi video, negli spettacoli live, trasformandola senza mai cavalcare le mode. Bowie è stato certamente un innovatore, capace di stupire e di emozionare, anche quando tutto intorno al mondo della musica e dei suoi cliché sembrava girare piatto. Ha calzato numerose maschere senza mai sceglierne una in particolare. Ha fatto vivere e morire i suoi personaggi sulla scena come solo un grande attore teatrale poteva fare. La morte di Bowie lascia un vuoto incolmabile, ma restano le sue canzoni, i suoi testi mai banali, a raccontarci il significato puro e incontaminato della ricerca di fantasia e nuove suggestioni dei linguaggi del rock. Cambiamo decisamente argomento e torniamo all'estero. 2 convogli che trasportano aiuti umanitari, in particolare cibo, sono in viaggio. La vicenda ve l'abbiamo raccontata, come ricorderete, venerdì, la vicenda di una città assediata in Siria, Madaya. E questi 2 convogli, a quanto pare, stanno finalmente arrivando. Che il cibo sia un'arma di guerra non è una novità, sta accadendo ancora una volta in Siria, a Madaya e Zabadani, al confine con il Libano, dove 40.000 persone stanno morendo di fame strette nell'assedio delle truppe di Assad e delle milizie Hezbollah. L'ONU aveva annunciato la partenza di un convoglio umanitario autorizzato dal regime già la settimana scorsa, ma gli aiuti sono stati bloccati per giorni e oggi dovrebbero essere consegnati, mentre altri convogli trasferiranno beni di prima necessità ad altre 2 città siriane, questa volta sotto assedio dei ribelli, Fua e Kafraya. 21 camion sono diretti a Fua e Kafraya, 44 verso Madaya, nella provincia di Damasco. ONU e Medici Senza Frontiere confermano che a Madaya almeno 23 persone sono morte di fame dal 1 di dicembre e confermano la mancanza di cibo e medicine, mentre non confermano l'autenticità di foto e video postati sui social network nelle ultime settimane, in cui si vedono anziani e bambini in condizioni di grave deprivazione. Ma si sa che oltre al cibo, un'altra arma di guerra utilizzata nei conflitti contemporanei sono le immagini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo all'Italia. I lavoratori dell'Ilva di Genova hanno occupato il cortile di Palazzo Tursi, sede del comune. Andrea Ferro ha raccolto alcune delle loro voci alla manifestazione di questa mattina. Siamo in piazza per far rispettare l'accordo di programma che prevede la garanzia del reddito e dell'occupazione. Il reddito è messo in discussione perché dal 1 gennaio c'è un taglio sui contratti di solidarietà, su iniziative del governo. E non c'è nessun atto che garantisca la corretta copertura economica. E girano voci di emendamenti, ma sono dei pasticci. Ecco, sullo sfondo c'è la questione della vendita di fatto dell'Ilva. Sì, c'è anche quella, è il 9° decreto, se il risultato è paragonabile agli 8 fatti precedentemente, io direi che siamo di fronte a una confusione massima. Quindi 9 decreti ad oggi sulla questione dell'Ilva, fatti dai governi precedenti, e da questo non hanno portato a nessuna soluzione, anzi è ancora più complicata. Il timore è che ci sia un ridimensionamento occupazionale netto? Un ridimensionamento, che anche il timore che possa essere venduta in queste condizioni, perché noi non sappiamo ancora se può essere comprata, essendo per noi le azioni ancora in capo ai vecchi proprietari, di maggioranza e di minoranza. Quindi la situazione è confusa, non c'è chiarezza. La Puglia insorge contro le trivellazioni in coro. Presidente della Regione, Sindaco delle Isole Tremiti annunciano ricorso al TAR o alla Cassazione dopo la firma da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Guidi di un decreto che riguarda appunto le trivellazioni. Sentiamo. Un ricorso al TAR o alla Corte Costituzionale contro il decreto che autorizza le ricerche petrolifere davanti alle isole Tremiti, varato il 22 dicembre alla vigilia della legge di stabilità dal Ministero per lo Sviluppo Economico per la cifra di poco meno di 2.000 euro l'anno, e le proteste in Puglia salgono anche dopo la decisione della Cassazione che, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di stabilità, ha messo solo un referendum su 6, quello che riguarda misure del decreto sviluppo sul divieto di trivellazioni per l'estrazione di idrocarburi entro le 12 Emilia Marine. Così il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Andare a cercare il petrolio nell'Adriatico e nello Ionio è una stupidaggine. Comunque io mi auguro che al più presto il presidente del Consiglio convochi i presidenti delle regioni interessate dal referendum e si risolva una volta per tutte questa vicenda, perché altrimenti saremo costretti a fare una battaglia politica. Oggi e domani contatti e riunioni delle istituzioni pugliesi coinvolte a Bari per una battaglia comune, come spiega il sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini. Dovremmo proporre, non so se un ricorso al TAR o alla Corte Costituzionale, a qualcuno, perché questi signori furbetti fanno quello che vogliono, insomma, questo bombardamento dei fondali, creeremo un mar morto pure nell'Adriatico. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, torniamo a parlare di musica. Abbiamo l'audio? La musica che sentite è la colonna sonora composta da Ennio Morricone per The Hateful Eight, il nuovo film di Quentin Tarantino. Tarantino, colonna sonora che ha vinto il premio ai Golden Globe, appunto, come miglior colonna sonora originale. Lo stesso Tarantino ha ritirato il premio al posto del compositore, paragonando Morricone ai grandi artisti della musica classica come Mozart, Beethoven e Schubert. Il resto di come sono andati i Golden Globe alla 73esima edizione, il tre premi importanti a Revenant per film, regista e per il protagonista Leonardo DiCaprio, nella sezione commedia The Martian, per il quale è stato premiato anche il protagonista Matt Damon, e film d'animazione dell'anno è stato giudicato Inside Out. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione parleremo di questa vicenda venuta al largo dell'Adriatico, dove gli scafisti avrebbero lanciato fuori da un barcone in arrivo sulle coste italiane delle donne. Sicuramente c'è una vittima, ci sono anche dei dispersi, ci faremo dare gli aggiornamenti dalla Guardia Costiera, e poi parleremo col nostro Enrico Ruggeri e parleremo di David Bowie. A tra poco. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I titoli in primo piano: la Guardia di Finanza nella casa del sindaco di Quarto, che non è però indagata, intercettata, dice in lacrime: non vado in carcere per le colpe di qualcun altro. Nel frattempo il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone dice: gli appalti sulla rete fognaria sono regolari. A Colonia salgono a 500 le molestie denunciate dalle donne per la notte di Capodanno, tutti stranieri responsabili, dice il ministro del Nord Reno Vestfalia, mentre il portavoce di Merkel cerca di placare gli animi. Nulla giustifica l'ostilità contro i musulmani, ma in molte parti del paese, soprattutto a Colonia, è già scattata una sorta di caccia all'uomo. E poi i migranti gettati in mare nell'Adriatico dagli scafisti: è morta una donna somala, si cercano dispersi al largo della Puglia. Per la musica, la leggenda David Bowie è morto a 69 anni, venerdì era uscito il suo ultimo disco, era malato di tumore. E adesso parliamo proprio di quello che è successo nel mare Adriatico e di quello che sta ancora succedendo, con Attilio Da Conto, che è capitano di fregata, capo del compartimento marittimo di Gallipoli. Capitano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, qual è il quadro della situazione al momento? Abbiamo riassunto molto sommariamente nei nostri titoli, come nei titoli deve essere evidentemente. Ci può dire che cosa è successo innanzitutto e poi diamo l'aggiornamento? Ah, sì, nel corso della nottata sono avvenuti tre sbarchi all'Euca, precisamente all'Euca, Felloni, che a Novaglie, sono praticamente Leuca, Novaglie e sulla costa orientale salentina, mentre Felloniche è su quella occidentale. Proprio qui a Felloniche purtroppo questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di una delle sette donne che occupavano l'imbarcazione, che sarebbero, almeno dalla prima dichiarazione fatta dagli altri migranti, state scaraventate letteralmente in mare. Ovviamente insomma anche la ricostruzione dei fatti è abbastanza complessa e complicata, perché capisce, insomma, loro non hanno, si esprimono non in inglese, quindi insomma la traduzione dall'arabo è abbastanza complicata. E certo, naturalmente, anche perché siamo ancora ad eventi in corso, in sostanza. Mi risulta, capitano, che stiate cercando eventuali dispersi o disperse. Assolutamente sì, le ricerche in mare sono ancora in corso con mezzi navali nostri, con un elicottero e con il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, proprio perché appunto non si ha ancora una contezza precisa di quanti potrebbero, sarebbero state le persone arrivate, quindi finché non abbiamo dei numeri più o meno precisi le ricerche continueranno. Avete segnali, capitano, che sia ripreso il movimento di migranti in questa direzione, appunto dall'Adriatico? Nei giorni scorsi noi abbiamo ospitato una persona che si occupa di rifugiati e dice che la chiusura dei confini a nord potrebbe portare ad un ritorno della tratta lungo l'Adriatico. Avete segnali di questo tipo, e quello che vediamo oggi è un segnale di questo tipo? Io questo onestamente non glielo so dire, sì. sono ancora analisi in corso. Quello che le posso sicuramente dire è che purtroppo, per fortuna, ora insomma purtroppo per come si è verificata la cosa, è il primo sbarco del 2016. La ringrazio, grazie ad Attilio Daconto, capitano di fregata e capo del compartimento marittimo di Gallipoli, al quale evidentemente auguriamo buon lavoro. Noi adesso cambiamo decisamente argomento e ritorniamo a parlare di David Bowie. E so che probabilmente non c'è niente di meglio di un bel riff di chitarra, e in particolare di questo riff di chitarra, presumibilmente, per chiamare in causa il nostro Enrico Ruggeri. Enrico, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, anche se non è un buongiorno evidentemente per la musica che ci piace, che cosa ha rappresentato per te David Bowie e che cosa ha rappresentato in assoluto per un musicista? Ma per me ha rappresentato il motivo per cui io faccio il cantante, insomma, perché io da ragazzo avevo due personaggi di riferimento che erano Bowie e Lou Reed. Lou Reed, ahimè, scomparso un anno e mezzo fa, e Bowie adesso, e quindi insomma erano quelli di cui avevo il poster in camera, i cui album giravano perennemente sul mio piatto. E per quanto riguarda la musica, Bowie ha rappresentato tutto, perché è stato un innovatore, un precursore. Si parla un po' superficialmente di glam rock, nel senso quel rock degli anni 70 in cui diciamo così ci si travestiva, si dava molto spazio all'estetica. In realtà quello fu solo una parte del percorso di David Bowie, che era curioso, irrequieto, all'apice del successo quando inventò il personaggio Ziggy Stardust, quello diciamo con i capelli rossi e lunghi dietro, per intenderci. Quando fu all'apice del successo abbandonò il personaggio annunciandolo al pubblico, e pochi mesi dopo era già in America, completamente diverso nell'aspetto e nella musica, ed era il Duca Bianco. Poi è andato a Berlino scoprendo invece la mit dell'Europa. Insomma, in tutte queste decadi David Bowie ha lanciato il sasso che altri hanno raccolto. Vediamo se riusciamo a sentire un altro passaggio di Bowie. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. E questo è un pezzo del suo ultimo disco, che è uscito venerdì in coincidenza con il suo 69esimo compleanno, e già qualcuno, Enrico, ci legge una sorta di testamento spirituale. Questa canzone si chiama Lazarus, tra l'altro. Sì, beh, sicuramente, insomma, chiudere il proprio percorso dicendo adesso sono in cielo, nel caso di Bowie, insomma, che non era uno che lasciava nulla al caso, sicuramente, insomma, fa parte di un percorso che con classe e lucidità include anche la sua dipartita. È impensabile che Bowie abbia lasciato al caso una chiusura, ahimè, così perfetta. Così perfetta, anche nei video consiglio di andarseli a vedere, sono anche abbastanza, sì, sono anche abbastanza inquietanti, però per certi versi significativi. Un'ultima cosa ti voglio chiedere, Enrico, noi ovviamente ti ritroviamo alle 15.30, come sempre, con il Falco e il Gabbiano. Sto arrivando a Radio 24, perché ovviamente ci stai lavorando, immaginavo. Speciale a caldo. Perfetto. In attesa poi di dedicare spazio a Bowie la prossima settimana, come dire, con ponderando, oggi invece facciamo una puntata più caldo. Quindi puntata speciale del Falco e il Gabbiano alle 15.30 dedicata a David Bowie, grazie al nostro Enrico Ruggeri, che quindi ritroviamo tra circa un paio d'ore. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre che cosa succede sui mercati, dopodiché ci ritroviamo e torniamo a Colonia con la nostra inviata Raffaella Calandra, con la quale sentiremo anche qualche voce che ha raccolto nel corso del fine settimana, in una situazione che resta tutto sommato molto tesa. Addirittura sarebbe stata lanciata una sorta di caccia all'uomo su Facebook contro chi si presume, ma senza saperlo, perché poi ci vogliono prove di polizia, ha compiuto le violenze. Una pausa, tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, le notizie in primo piano, innanzitutto a Colonia, dove mentre salgono a 500 le molestie denunciate, il ministro del Nordrhein-Westfalia dice che sono tutti stranieri responsabili, e il portavoce di Angela Merkel, che nulla giustifica l'ostilità contro i musulmani, sarebbe stata lanciata una vera e propria caccia all'uomo, un'iniziativa nata e lanciata su Facebook per colpire chi eventualmente sia stato responsabile di violenza. Intanto sono stati aggrediti sei pakistani ed un siriano. La Guardia di Finanza nella casa del sindaco Di Quarto, oltre che nel comune, che non è però indagata, intercettata, dice in lacrime: non vado in carcere per colpa di qualcun altro. I magistrati parlano di un ruolo ambiguo del sindaco, mentre il responsabile dell'autorità nazionale anticorruzione Cantone dice sono regolari gli appalti sulla rete fognaria. Ci sono migranti che sarebbero stati gettati in mare nell'Adriatico dagli scafisti. Si tratterebbe di donne che, come avete sentito, si trovavano a bordo di un'imbarcazione. Erano sette, tutte somale. Sicuramente una è morta e si cercano dispersi al largo della Puglia. E come avete sentito, per la musica è morta la leggenda David Bowie a 69 anni. Venerdì era uscito il suo ultimo disco. Era malato di tumore. La borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Eccoci qua con una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda il cinema. Fuoco a mare, il nuovo film documentario del Leone d'Oro Gianfranco Rosi, sarà presentato in concorso a Berlino, è stato annunciato oggi dalla Berlinale. Dunque questa è la notizia di cinema. Nel giorno nel quale è arrivata un'altra notizia, ve la ricordiamo perché nei precedenti titoli non ve l'abbiamo data, Ennio Morricone ha vinto il Golden Globe per la miglior colonna sonora per The Hateful Eight, il nuovo film di Quentin Tarantino. Noi adesso torniamo a Colonia dalla nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella, eccoci qua per un punto e un racconto di come hai trovato la città. Vai. Allora, la città, come dicevamo anche nel primo collegamento, in questo momento sta cercando di tornare alla normalità, e qui ora tutti si preparano sostanzialmente per il carnevale, che è la festa più importante, ma su cui quest'anno innanzitutto si allunga un serio pericolo di sicurezza, visto quello che è successo a Capodanno. Però ecco, quello che è successo non è soltanto ormai qualcosa da rilegare nelle polemiche, diciamo, dei giornali o nelle indagini della magistratura, perché in realtà quella notte di Capodanno sta davvero cambiando le abitudini e il modo di sentire della città e un po' anche dell'intera Germania. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che non solo molti dicono e raccontano di sentirsi, molte donne soprattutto, di sentirsi insicure, ma si sta creando un clima di ostilità nei confronti dei migranti. Ieri io sono stata in uno dei tanti campi profughi, in uno dei principali campi profughi di Colonia, Ercole Strasse, e ho parlato con molti di questi migranti, che alcuni dei quali erano anche in piazza la notte di Capodanno, che ammettono di sentirsi ora insicuri, di temere, cioè, che questa, da una parte, la stretta voluta da Angela Merkel, che anche oggi è in discussione a Berlino, che rende più facili le espulsioni e la revoca dell'asilo in caso di reati, complichi per loro la vita, ma dall'altra parte anche che ci possono essere una serie di casi di razzismo e di aggressioni nei loro confronti, e purtroppo questo sta già capitando, tanto che già questa notte ci sono state delle aggressioni. Ci sono state delle aggressioni questa notte, è stata lanciata una sorta di caccia all'uomo. Allora, Raffaele, non abbiamo ancora molto tempo, ricordo agli ascoltatori che oggi la puntata di Effetto Giorno è più breve. Voglio far sentire una delle tante voci che hai raccolto molte voci di musulmani, appunto, di persone al campo profughi, che sono state, che abbiamo sentito anche nei nostri giornali radio, ma hai raccolto voci anche di tedeschi, sentiamone una. Lederjacken. Questa è una signora tedesca che ho incontrato appunto al campo profughi, che era arrivata per distribuire delle giacche di pelle e delle bambole, era arrivata lì per portarle ai migranti. Allo stesso tempo, parlando con noi, però, lei stessa dice: loro restano i benvenuti, ma sono troppi, perché la Germania non può garantire loro adeguati a case dove stare, scuole, cose che rendano, cioè, accettabile e dignitosa la loro vita. Ed è proprio questo il tema su cui che sta cambiando proprio la Willkommen Politik di Angela Merkel, perché appunto la politica di accoglienza sta inevitabilmente restringendosi, e se lo dice una donna anche che è andata, ha fatto molti chilometri per andare a distribuire a indumenti e bambole ai bambini siriani, in qualche modo è un segno di un cambiamento profondo. Che c'è da crederci, un cambiamento profondo. Grazie alla nostra Raffaella Calandre, ovviamente buon lavoro. Prima di chiudere, tra poco ci sarà Tutti Convocati, nel quale avrete modo anche voi, come sempre, di parlare di campionato. Noi vogliamo però parlare di un altro campionato qua, quello dal quale per minacce aveva deciso di uscire la squadra di calcio a 5 femminile di Locri, minacce che però, Dario Ricci, non sono dell''Ndrangheta a quanto pare. Beh sì, diciamo che questa è già una buona notizia, no? Ma sembra che, anche se gli ignoti autori di queste minacce non sono state ancora individuate, e la magistratura chiaramente sta indagando, così come la procura federale, sembra davvero a sentire gli inquirenti che piuttosto la pista da battere è quella riconducibile a tensioni interne alla società relativamente ai bilanci tra il presidente, che è appena dimissionante, diciamo così, perché poi questa vicenda è ancora da chiudere, e gli altri soci. Quindi fortunatamente non ci troviamo su quello scenario. Ieri le ragazze sono tornate in campo, c'era anche il presidente della Federcalcio Tavecchio, insieme alle autorità locali, alle autorità del calcio italiano, per testimoniare la vicinanza soprattutto alle giocatrici e al loro allenatore. Ma ecco, sembra che questa pista di 'Ndrangheta si stia sgonfiando rispetto invece a vicende tutte interne a questo club. Direi che, insomma, è una buona notizia e anche un avvertimento a noi giornalisti di, insomma, a non gonfiare, gonfiare troppo le cose. Esattamente. Sul campo poi Locri ieri ha perso 3-2, ed però, è soprattutto di questo che vogliamo poi parlare, del proseguo del campionato. Grazie al nostro Dario Ricci per questo aggiornamento. Con un po' di ritardo diamo la linea a Mario Platero per America 24, ci risentiamo alla fine per i saluti.